Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. È la puntata numero 446. Ancora una volta, una puntata estiva nella quale vi proponiamo interviste, musiche e riflessioni tratte da vecchie edizioni della nostra trasmissione. Servizi andati in onda nei nostri primi 2 anni di lavoro, dal 2012 al 2014. Il sommario di oggi prevede la rubrica letteraria Perle agli umani, con la recensione di un libro un po' datato ma ancora validissimo, La giungla, di Upton Sinclair. Per la rubrica Vegan at Work, uno spazio dedicato all'etica vegana messa alla prova del lavoro nel mondo reale, intrecceremo 2 testimonianze dall'interno di un ristorante vegano che si trova ad Arco, sul lago di Garda, e che si chiama Veganima. Per la rubrica Le vite degli altri, piccoli ritratti di animalisti illustri, daremo la parola a uno storico, uno studioso di Garibaldi, Francesco Ghidetti, che ci farà scoprire l'inedita sensibilità vegetariana e animalista dell'eroe dei due mondi. Infine, vi proporremo uno speciale sul linguaggio, una rubrica che avevamo intitolato Mangia come parli, che aveva lo scopo di farci riflettere sul linguaggio specista che usiamo spesso involontariamente. La locuzione che analizzeremo oggi è l'odioso detto «Hai un cervello di gallina». Speriamo di avervi incuriositi. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Questa settimana vi proponiamo un grande classico, La giungla, di Upton Sinclair. Uscito nel 1906, La giungla è un romanzo basato su un'approfondita inchiesta giornalistica nei macelli di Chicago e fra i lavoratori di quei grandi stabilimenti. Questo libro fu la prima potente denuncia delle terribili condizioni esistenziali dei lavoratori, sfruttati e umiliati, ma anche storditi dalle ore trascorse alla catena di montaggio, ma è più corretto dire di smontaggio, qual era l'organizzazione interna ai mattatoi di Chicago. Una catena di montaggio che precedette addirittura quella che sarebbe stata impiegata nelle fabbriche di automobili Ford. Il libro di Sinclair è sconvolgente per la denuncia delle spaventose condizioni di vita della classe operaia. Sottopagata, senza alcuna tutela, sottoposta alle angherie dei padroni, specie le donne, e obbligata in fabbrica a convivere con le urla, lo strazio, il sangue, le interiora di migliaia di animali. La giungla fu anche una potente denuncia delle adulterazioni alimentari. La carne era ottenuta in condizioni igieniche spaventose. Nelle salsicce finivano anche animali morti, sangue raccolto da terra, topi, escrementi. Nel romanzo un operaio caduto in una vasca finisce anche lui nella produzione distrutto. Lo scandalo fu tale che si arrivò all'approvazione di nuove leggi sull'allevamento e i macelli. La giungla è un libro storico, ma di incredibile attualità. Oggi i mattatoi sono enormi fabbriche di animali e chi vi lavora è la parte più debole della classe operaia, spesso immigrati. Anche il protagonista del libro è un immigrato, il lituano Jurgis Rudkus, che esce abbrutito dall'esperienza ai macelli, afflitto da continui soprusi e disavventure. Prende poi via via coscienza della propria condizione e approderà al sindacato e alla fiducia nell'ideale socialista. Sinclair, che pubblicò a puntate la versione originale del suo romanzo su un periodico del Partito Socialista statunitense, diventò vegetariano. Gli animali, le torture loro inflitte, descritte con un realismo che arriva a disturbare il lettore, ma è un disturbo che introduce alla presa di coscienza, sono gli altri dolenti protagonisti di questo intenso e tremendo romanzo. Una possibilità di riscatto e di liberazione, un giorno, dovrebbe toccare anche a loro. Ecco un brano del libro, nel quale si racconta di una visita al mattatoio. In un certo punto i maiali potevano fermarsi per qualche istante, ma venivano subito sospinti in avanti attraverso una passerella, finendo così in quello stanzone da cui non sarebbero mai più usciti. Ai lati della ruota c'erano due stretti corridoi in cui i maiali entravano al termine del loro viaggio, e in mezzo, fra i due corridoi, sostava un nerboruto operaio nero, con le braccia e il petto nudi. Appena la ruota si muoveva, accadeva che il povero maiale veniva di colpo sollevato e cominciava a dimenarsi e a strepitare per aria. Infatti uno strido agghiacciante colmò in quel momento lo stanzone e squarciò i timpani dei visitatori. Essi sobbalzarono e le donne si ritrassero atterrite. A quello strido ne seguì un altro, ancora più disperato. Era dovuto alla consapevolezza del povero animale che, una volta sollevato in aria, capiva di non poter più tornare indietro. Lassù, giunto al punto in cui la ruota cominciava a farlo scendere, mediante una specie di carrucola veniva smistato in una certa direzione. Si muoveva, sospeso a mezz'aria, per lo stanzone, mentre un altro suo simile, e poi un altro ancora, lo seguivano alla stessa maniera, fin quando non si formava una doppia fila di maiali, appesi per una zampa, che si dimenavano e grugnivano disperati. Il tutto era sistematico, così clinico, così razionale, che i visitatori ne rimanevano affascinati. Era la produzione meccanizzata della carne di maiale, la produzione organizzata su base matematica della carne di maiale. Il bimbo del macello. Vegan at Work. Storie di vegani al lavoro. Oh yes. Sono Luca, abito ad Arco, ho un ristorante vegano da 2 anni, un'esperienza importante e bellissima che nasce da una ricerca profonda iniziata tanto tempo fa, partendo dai vari lavori fatti, ma soprattutto dai viaggi che hanno cambiato il mio modo di percepire e di vedere le cose. Io sono Giada, ho 22 anni, sono qui di Arco, di Trento. Ho smesso di nutrirmi di animali all'età di 13 anni. Ho sempre visto gli animali come amici, come fratelli. E sono diventata vegana d'alimentazione tra i 16 e i 17 anni e vegana e attivista all'età di 18. Ho militato con parecchi gruppi, in particolare con i Cani Sciolti e il Fronte Animalista di Torino e Milano. Successivamente ho fondato insieme al mio migliore amico, anche lui animalista e vegano, e il gruppo di animalisti trentini. Sono uscita da molti problemi di salute, anche dall'anoressia, come vegana, senza mai rinunciare all'aspetto etico, senza prendere alcun farmaco allopatico, senza fomentare, diciamo, la sperimentazione animale. Ho 2 animali, la mia vita, le mie 2 cucciole, e un cane e un gatto. Ho deciso di andare via di casa per poter stare con loro, e visto che in casa mia la mia mamma e il mio papà non mi avevano concesso di tenerle. E poi è stato tutto un intreccio, perché poi in realtà comunque ero già vegetariano. I viaggi sempre in Asia, dove ho vissuto, Bali, Indonesia, Sri Lanka, dove ho lavorato, ho fatto batik, hanno sempre di più forgiato quest'anima, insomma, che ricerca e che cerca l'essenza poi, no, delle cose, fino ad arrivare a sperimentare anche la cucina, perché a un certo punto da vegetariano a vegano volevo intanto conoscere bene cosa significava cucinare vegano e volevo provare anche a capire cosa voleva entrare in una cucina. E così poi ho cercato lavoro, all'inizio insomma cercando di entrare in qualsiasi modo in una cucina. Sto studiando filosofia alla facoltà di Trento e l'anno scorso mi ero iscritta a medicina, avevo superato il test ingresso anche con un buon risultato, però ho deciso di non frequentare poiché avrei dovuto fare l'obiezione di coscienza e purtroppo, come si sa, attualmente nella facoltà di medicina viene fatta la sperimentazione animale, eticamente concessa purtroppo, e di conseguenza ho deciso di rinunciare. E sto lavorando per potermi mantenere nell'appartamento e poter mantenere le mie 2 bimbe, e attualmente lavoro in un ristorante vegano. Ho avuto la fortuna di trovare questo magnifico posto, magnifico ristorante. Fra 2 mesi cambieremo

ma mangia come parli. Parole, non solo parole, parole tra noi. Hai un cervello da gallina è una frase che generalmente soggetti di sesso maschile rivolgono a soggetti di sesso femminile, anche se talvolta può accadere che sia una donna a riferirsi con questa espressione ad un'altra donna. È rarissimo che questo accada all'inverso, cioè che questa espressione sia utilizzata da una donna nei confronti dell'uomo, e quindi è chiaro qual è il referente finale di questa affermazione. È un soggetto di sesso femminile e pertanto questa frase mostra chiaramente l'intersezione che corre tra forme diverse di discriminazione. In questo caso lo specismo e il sessismo che si rafforzano e si moltiplicano tra di loro. Anzi, da un certo punto di vista, in questa frase lo specismo è usato per rafforzare e consolidare una visione sessista della società. Chiaramente questa affermazione è un'affermazione empiricamente falsa per una serie di motivi. Il primo, che le donne hanno cervelli più grandi di quelle delle galline, fattualmente hanno cervelli più grandi di quello delle galline. Ma ancora più significativo è il fatto che le galline hanno il cervello che è giusto che abbiano, un cervello che si è sviluppato nel corso di millenni di evoluzione, che permette alle galline, fin tanto che noi non le rinchiudiamo nelle nostre gabbie, di svolgere una vita adeguata all'ambiente in cui dovrebbero trovarsi. Ma infine, forse l'aspetto ancora più importante, che la grandezza del cervello non ha alcuna rilevanza, a differenza di quello che pensiamo, per quanto riguarda le funzioni cognitive che riteniamo tanto importanti. Esiste una lunga storia attraverso la quale l'uomo si è definito come l'animale con il cervello più grande, dove più grande stava a significare più intelligente. Esiste un'altrettanto lunga storia che mostra come in realtà esistono animali con cervelli più grandi, pensiamo agli elefanti e alle balene, ai quali si è cercato di rispondere introducendo una correzione, cioè la correzione delle dimensioni del cervello per le dimensioni del corpo. L'introduzione di questa correzione ha però portato a far sì che di fatto i topi scoiattoli avessero un rapporto dimensione corporea e dimensione encefale che è migliore di quello degli umani, per cui si è ricorso a tutta un'altra serie di correzioni che hanno sempre però portato altri animali molto vicini o addirittura superiori agli umani. Ecco allora che ancora una volta ci troviamo di fronte ad un sistema che è stato utilizzato per creare una superiorità con caratteristiche biologiche, una superiorità che in realtà invece nasconde ben altri tipi di interesse. E quindi la frase da cui siamo partiti è un cervello da gallina, è una frase che, pur passando spesso inosservata e pur essendo considerata un luogo comune, un'affermazione banale, nasconde in realtà un vero e proprio mondo di violenza. Direi che questa frase fa parte delle affermazioni che Foucault definiva quelle affermazioni che fanno ridere e uccidono. Fanno ridere e uccidono perché mescolano presunti saperi scientifici con stereotipate considerazioni di stampo morale normalizzante. E noi pensiamo che le galline siano animali intelligenti, ma aggiungiamo che meriterebbero il nostro rispetto anche se non lo fossero o non ce lo dimostrassero. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.